Sono veramente stanca di questo stato di cose del mondo, cioè, perché se ti immergi in inciampanti, ammazzi 57 vite consecutive per fare qualcosa, alla fine rimani sempre, per l'appunto, un poveretto inciampagno. I nostri sensi sono sempre limitati, naturalmente la gente preferisce scassarsi per 60 anni continui di cosiddetto lavoro anziché fare qualcosa di realmente importante per se stessi, conoscere ovviamente. Io sono oltre la stanchezza, qui in questo mondo c'è gente che si piglia dai 2.000 fino ai 50.000 euro al mese per firmare due carte, sono sempre la povera sfigata che non ha mai niente, ovviamente è da circa 10 anni che continuo a inviare articoli, articolarmi sottopagato per ricevere in cambio di un paio di centesimi, che poi centesimi che potrei perdere in un qualsiasi momento perché sono tutti correlati ad account che possono scomparire da un momento all'altro pure. Devo continuamente di gente che si acquista questo e quell'altro, senza requie, oppure comprando anche una persona normale. Io non ho avuto mai nulla praticamente dalla vita, tutti gli altri avevano Super Nintendo da piccoli, io un cazzo. Giusto qualcosa perché avevo in prestito, naturalmente poi una parte come cleptomane, parte anche a fottere queste e quelle, perché mai io sono stata morigeratamente onesta anche da quel punto di vista, mai rubato, fregato. Anche se ovviamente la tentazione è forte quando non hai nulla, la povertà ti porta alla disperazione. Una disperazione che nemmeno i poveri in questo paese conoscono, perché anche i poveri vedo che hanno comunque cellulari, l'ultima fashion, le case ce le hanno, le interviste ce le hanno, la popolarità ce l'hanno, io cosa ho avuto mai? Praticamente non ho mai avuto neanche un amico, figurati. Avevo qualche corrispondente online, però alla fine, a causa di alcune contravvenienze, alcuni diverbi non sussistenti, tra l'altro incentrati su fraintendimenti, mi sono dovuti mandare a quel paese l'uno e l'altro, mi hanno tutti mandato a quel paese in realtà per via di alcuni sbalzi morali che avevo anche collezionato in seguito a questo tenore di vita osceno e terrificante che devo mantenere a causa di questa famiglia che non mi ha mai dato altro che pena. Figurati, come pretendi che una persona possa sopravvivere con 10 euro al mese, come faccio io? Figurarsi, ho ridotto drasticamente tutto quello che faccio, sia perché non ho le forze, una compressione, una stenosi aortica, qualcosa di simile, non ce la faccio poi per astenia generale del corpo, è una roba inverosimile. Devo veramente darmi delle botte di adrenalina provenienti da chissà che, magari dal peperoncino, quello ai miei tubetti vasetti per farmi campare da sola. Sono anni e anni. Anni e anni, continuate, svariati, continuate anni che io aspetto che finisca questo strazio pazzesco. E niente, si è sempre qui a guardare le pagine di serial crime, eccetera, ad appassionarsi, mentre tutti gli altri fanno gli ipocriti, pensano che non faranno mai nulla di simile un giorno, ma sono tutti svitati, perché tanto il male alberga in tutti. Sono ormai di quella che potrebbe essere chiamata la parte della bontà perché corrisponde con la neutralità, essendo mio dedicato al nichilismo e all'antinatalismo, quindi whatever. Risparmio le mie forze per quel benedetto giorno in cui vedrò finalmente 2 centesimi di euro e la pianterò con questa sofferenza, perché tutto quello che ho sofferto in vita in gran parte è stato dettato dalla mancanza di quattrini. Forse sono andata alla Caritas prima, mi fossi fatta mantenere prima, anzi ho un piano di riserva quasi con le dating app che aborro perché io sono da sempre monogama, anche se non ho mai avuto fidanzati, sono vergine a 33 anni, quindi sono probabilmente una delle poche donne che ha raggiunto questo risultato involontariamente sulla Terra, quindi amen. Ho avuto una singola relazione virtuale, tra l'altro con una persona che nemmeno vuole più ascoltarmi, quindi amen. E continuo su questa lunghissima strada sperando sempre che domani arrivi questo, anzi non spero, è semplicemente una bisogno immaginario, prospettica, tutti dicono everything is going better, sono dei sì, poveretti, poveretti, ma poveretti non hanno la minima idea. Spero di ricevere il denaro che mi compete perché io ho fatto molto più di qualsiasi altra persona su questa terra per quanto riguarda determinate parti dell'esistenza, ho risolto numerosi problemi relativi all'esistenzialismo, ho raggiunto una visione completa e olistica, non ridicolmente olistica delle cose. E questo freestyle, per quanto mi riguarda, si può concludere anche qui, tanto delle ridicolizzazioni automatiche che si parla tra IBS, ovvero colon irritabile e quant'altro, gente ignorante, imbecille, che non ha nemmeno idea del fatto che esistano delle STD, l'ho appena letto, figurati su 4chan, la gente si crede edgy per per via di avversamenti di questo e di quest'altro, invece sempre richiuso come conservatorismo vuole nel proprio microambito, proprio microorto del CAF. E niente, servono visioni lungimiranti, visioni che non avremo mai, il mondo è costituito da più reti confliggenti di opinioni, nessuno mi parla da 14 giorni in famiglia e nessuno mi parla da circa 30 anni fuori. Aspettiamo, non si sa che cosa, ma comunque la consumazione e il delirio arriveranno.